gioco sopra pure mi gusto e tutto il tormento che aveva dato amore. Non mi importa lo che anche se mi feccio vive tutta l'illusione. Il che passa è lo che passa, che se feccio amante nada más de ti. Anche io che sì, se non può durare perché va dentro di me. Anche io che sì, se non può durare perché va dentro di me. Traición.